Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, partiremo oggi dal rapporto dell'Istat sulla povertà in Italia. Dico subito che l'Istat non certifica in senso stretto una povertà in aumento, ma si occupa, diciamo, addirittura parla di povertà stabile, ma aumenta tra gli operai. Il termine che l'Istat utilizza è soprattutto riferito alla povertà relativa, e quindi il numero di famiglie in Italia relativamente povere ormai raggiunge gli 8 milioni di persone, ma ripeto, il dato complessivo non è in crescita. Migliora per esempio la condizione delle famiglie di dipendenti o dei dirigenti, ma peggiora la condizione delle famiglie operaie. Pensate che erano il 6% assolutamente poveri nel 2010, adesso siamo al 7,5%, e cresce anche la povertà relativa. Ripeto, migliora invece per altre categorie. Dopodiché ci occuperemo anche della vicenda Impregilo. Ha vinto Salini, vi ricordate che abbiamo seguito lo scontro tra Gruppo Gavio e Gruppo Salini per il controllo del principale gruppo di costruzione in Italia. Ha vinto Salini nel senso che il CDA, il Consiglio di Amministrazione a nomina Gavio, è stato revocato. Il nuovo presidente di Salini è Claudio Costamagna, nostro ospite la settimana scorsa, che rappresentava appunto la lista. Il nuovo presidente di Impregilo, scusatemi, è Claudio Costamagna, che rappresentava la lista Salini e che ci aveva spiegato in maniera molto chiara e netta che il loro obiettivo era valorizzare di più l'attività di costruzioni, uscire se non del tutto, quasi totalmente, dalla gestione delle tariffe autostradali e vendere alcune partecipazioni, per esempio quella brasiliana. Ancora parleremo nella seconda ora del programma di Sicilia, e quindi rinvio la rubrica che riguarda la Sicilia di Cos'è questa crisi alle 18:10. Avremo ospite infatti l'ex presidente degli industriali siciliani, attualmente vicepresidente di Confindustria, Ivan Lobello. È arrivato un monito molto forte da parte del presidente del Consiglio Mario Monti, il quale ha chiesto al governatore Lombardo di confermargli le dimissioni che aveva annunciato per fine luglio. Ricordo che proprio Lobello, in un'intervista di ieri al Corriere della Sera, aveva evocato il rischio fortissimo di un crack finanziario per la regione Sicilia, a 5 miliardi di buco e 3 milioni di euro in cassa. È come se una famiglia, immaginate, avesse 5 miliardi di debiti e 3 milioni di euro in cassa. Non andrebbe lontano, e un buco che si è creato con diverse gestioni, dipendenti. Pensate che i forestali siciliani sono 28.000 su 70.000 forestali in tutta Italia, il che vuol dire che quasi la metà dei forestali in Italia, isole comprese, riguarda la Sicilia. Va bene tutto, va bene la riserva delle Madonie, ma non ha nessun senso. È chiaro che, e tra l'altro, la regione Sicilia è la regione che ha il più alto tasso di incremento negli incendi, e c'è il sospetto che gli incendi, lo dico con la massima prudenza, vengono appiccati dagli stessi forestali per giustificare il loro ruolo. Non si capisce perché infatti la regione con il maggior numero di forestali abbia anche il maggior numero di incremento negli incendi. Ne parleremo nella seconda ora, dicevo, con l'ex presidente degli industriali siciliani, colui quale ha lanciato ieri l'allarme crack finanziario, chiedendo a Mario Monti eventualmente anche di ripensare l'autonomia della regione Sicilia. Ripeto quello che abbiamo detto ieri: l'autonomia è una cosa importante, uno se la deve meritare, un po' come quando si cresce. Se dimostri che non te la sai meritare perché scambi l'autonomia e l'autogestione per in realtà l'anarchia, e poi rivolgi tutte le spese al governo centrale, è meglio che te la levi questa autonomia. Detto ciò, io sono molto scettico sull'autonomia anche del Friuli, dell'Alto Adige, del Trentino, da Val d'Aosta. Basta queste autonomie, su, tanto insomma, sono autonomie che paghiamo noi, sono ben gestite le regioni del nord, ho capito, anche il Veneto, la Lombardia, l'Emilia sono ben gestite, eppure l'autonomia non ce l'hanno. Allora leviamo l'autonomia e basta, odiamola a tutti. Chiuso questo inciso, la borsa come va? Meno 0,88% in un giorno che vede lo spread di nuovo risalire a 490 punti, e mentre Parigi è invariata, e Francoforte guadagna lo 0,13%, Londra meno 0,65%. Ancora su questo, il Nasdaq in America perde lo 0,45%, il Dow Jones perde lo 0,30%, euro a quota 1,22,19. Le notizie in breve, parleremo anche di mercato auto, di dati sul mercato auto, oltre appunto che della vicenda Impregilo. Petrolio e oro come vanno? Allora, il petrolio è sostanzialmente a $89 al barile, l'oro è in rialzo invece a 1596. I gestori di carburante in Italia saranno in sciopero nel primo weekend di agosto, ma il garante, l'autorità di garanzia sugli scioperi ha detto: attenzione, non potete fare il sciopero nel weekend tra il 3 e il 5 agosto perché è periodo di franchigia e quindi come tale non può essere utilizzato per fare sciopero. Microsoft di nuovo nel mirino dopo la mega multa che le affibbiò il loro commissario Mario Monti. Rischia una multa dalla Commissione Europea perché non ha rispettato gli impegni presi nel 2009 sulla possibilità di scegliere il browser del web. Ancora Microsoft ha chiesto subito scusa, si scusa per aver mancato alle sue responsabilità, è un errore tecnico, ma replica la Commissione Europea, le scuse non cambiano nulla. Ryanair intanto ci riprova con Aer Lingus, offre 694 milioni di euro per la compagnia di bandiera irlandese che già aveva rifiutato la prima offerta. Ryanair già detiene il 30% quasi di Aer Lingus. Sempre in tema di economia internazionale, ha parlato poco fa il numero uno della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, ha detto che la Federal Reserve è pronta ad agire se necessario e appropriato, che la crescita americana sarà moderata nei prossimi trimestri, che il mercato del lavoro cresce a ritmo però lento e che la fiducia resta bassa. Ha poi fatto un riferimento anche all'Unione Europea che è sotto stress sia come economia che come mercato finanziario e questo aumenta l'incertezza sulla crescita globale. L'asta dei titoli spagnoli. La Spagna ha collocato oggi 3 miliardi e mezzo di bot spagnoli di bonus a 12-18 mesi. Buona la domanda, il rendimento è sceso dal 5% di giugno al 3,91% di oggi e anche a 18 mesi è calato dal 5,1% al 4,2%. E questo poi fa dire al ministro dell'economia spagnolo Luis de Guindos in un'intervista al quotidiano La Vanguardia: la Spagna non è sotto tutela e non avrà bisogno di un salvataggio della sua intera economia. Tra l'altro, come notizia, oggi il re di Spagna, Juan Carlos, ha tagliato il suo appannaggio come re del 7% secondo quanto previsto dal piano di austerity del paese. Come va lo spread italiano? È a 483 punti, quindi sempre molto alto. Il rendimento dei BTP a 10 anni è del 6,08%, quello spagnolo è a 553 punti, con un tasso sui bonus a 10 anni al 6,77%. Dunque, vedo qualcuno che mi scrive, dice che io ho difeso l'autonomia della Valle d'Aosta. No, mai, ho detto che secondo me le autonomie regionali andrebbero eliminate, basta. C'è chi si arrabbia da Trento, mi scrive: guardi che il Trentino e l'Alto Adige non chiedono nulla a Roma. Eh no. Adesso andiamo a riprendere casomai i dati sui trasferimenti dallo Stato agli enti locali e vi accorgerete, mi dispiace, che mentre ci sono regioni in negativo per migliaia di euro, cioè il Veneto, la Lombardia e l'Emilia versano allo Stato centrale più di quanto ricevano, ci sono regioni in attivo, tra cui anche voi. Ma non è che è una colpa, anche perché il Trentino e l'Alto Adige sono dei casi di ottima amministrazione. Dico solo che basta, no? Nel 2012 ancora dare l'autonomia, che è un retaggio di quello che capitò nel secondo dopoguerra, che aveva 2000 motivi per esserci, no? E a me ne frega proprio nulla. Siamo nel 2012, con l'euro, con la moneta unica, devo ancora sentire parlare di autonomia della Val d'Aosta per il patois dell'Alto Adige, per la popolazione, che si mantenga il bilinguismo, ma ci mancherebbe. E però basta. Torniamo alle nostre notizie e occupiamoci di nuovo del rapporto della Banca d'Italia, che stima un PIL in calo quest'anno del 2%, e anche il 2013, come già detto ieri dal Fondo Monetario Internazionale, anche il 2013 purtroppo sarà un anno in calo, non pesantissimo da quello che si vede, però meno 0,2%. E sul downgrade, sull'abbassamento di voto operato da Moody's la scorsa settimana sul nostro debito, è intervenuto oggi anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a Cagliari per l'Assemblea degli Industriali Sardi. Ha detto: ci stanno assegnando una posizione che non è la nostra, noi siamo molto più competitivi come paese, è fondamentale tornare all'economia reale. E poi segnalo due notizie che arrivano dal Financial Times, che riguardano il mercato del lavoro. Il Financial Times oggi dedica un approfondimento ai giovani italiani, ricordando come la battaglia sulla riforma del lavoro sia stata la battaglia più accesa di questi ultimi anni. Mentre tutta la battaglia veniva combattuta su come proteggere i vecchi dipendenti prossimi alla pensione, non c'è stata, secondo il Financial Times, nessuna discussione sui 600.000 giovani disoccupati in Italia che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. E il Financial Times parla di una generazione di giovani italiani senza lavoro, generazione dei senza lavoro. Devo dire che anche a noi è sembrato che il sindacato si occupasse molto di più di chi è già dentro, non di chi dovrebbe entrare nel mondo del lavoro, ma non voglio riaprire una polemica, andiamo avanti. Mercato europeo dell'auto meno 1,7% a giugno, Fiat meno 16,7% delle immatricolazioni a giugno, e la quota cala pesantemente al 6,4% rispetto al 7,5% di quota Fiat sul mercato totale in Europa di un anno fa. Allora, della Sicilia parleremo tra un'ora con l'ex presidente degli industriali Ivan Lobello, attualmente vicepresidente di Confindustria, colui che ha detto: attenzione, qua si va verso il fallimento, bisogna eventualmente revocare l'autonomia. Adesso però parliamo, resta la nostra rubrica cos'è questa crisi, ossia chi la crisi non la vede, e anche in questo caso preparatevi, perché qualche notiziola, diciamo, da mal di stomaco ce l'abbiamo anche oggi. Allora, cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Dunque, al 30 giugno le auto blu nella pubblica amministrazione, quindi quelle assegnate ai vertici dell'amministrazione, comunque guidate da un autista, sono 7.837, e la diminuzione in sei mesi è stata di 1.884 unità, meno 20%. Allora, questa è una buona notizia, a dimostrazione, e lo dico con polemica, che un governo tecnico riesce a fare cose che un governo politico non è riuscito a fare. Non si capisce perché i governi precedenti non abbiano tagliato le auto blu, tante ciance, tante parole, tante dichiarazioni, poi stringi. Resta il nulla, 1.880 auto in meno, sono il 20% in meno. Bravo, un applauso al governo di Mario Monti. Vai. Ma cos'è questa crisi? ma cos'è questa crisi? Nel frattempo in Germania, depressi dalla pioggia e da temperature praticamente autunnali, sapete che nel nord e centro-nord Europa c'è un clima più invernale che estivo, i tedeschi tirano fuori un'iniziativa di solidarietà inedita in un format estivo: lanciare incentivi statali per chi fa le vacanze nel sud Europa. C'è una specie di premio per spingere i tedeschi ad andare ad esempio in Grecia e anche in Spagna o in Italia. Avrebbe senso una specie di premio last minute per i viaggi in sud Europa, ha detto il parlamentare tedesco che l'ha proposto. La politica potrebbe provvedere insieme alle industrie a un'iniziativa del genere, cioè non si vuole salvare la Grecia, ma si vuole incentivare il turista tedesco in Grecia. Attenzione, perché poi va bene mandarlo lì, ma occorre anche che torni una volta che arriva in Grecia il turista tedesco. Un ricone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. Allora, il ridimensionamento delle retribuzioni dei manager delle imprese statali, vi ricordate, no? A dicembre, nel decreto Salva Italia, abbiamo appena dato un applauso a Mario Monti, mo dobbiamo invece dargli una tirata d'orecchie, perché a dicembre fu deciso che i manager pubblici non potevano guadagnare più di 294.000 euro lordi. Benissimo, direte voi, dico anch'io. Peccato che occorreva il provvedimento per renderla operativa questa cosa. La scadenza intanto doveva arrivare a marzo, poi è stato spostato al 31 maggio, il motivo: problemi tecnici legati alla complessità della materia. Da settimane circola la voce che il decreto è pronto, però il Parlamento non ha ancora avvisato e né avvistato, essendo mai trascorso un mese e mezzo dalla scadenza. Un ritardo stranissimo, quando c'è da toccare le pensioni e l'IVA, tac tac, adesso se dobbiamo toccare i manager delle imprese statali, tutti lenti, ma che strano, sembra un po' il prezzo della benzina, Allora, perché ne parliamo? Perché vediamo un po' quanto guadagnano sti manager pubblici. Paolo Garimberti, all'epoca presidente della RAI, 670.000 euro, sono le dichiarazioni del 2010. Mauro Masi, direttore generale della RAI, un'azienda che, lo dico con massimo rispetto, viaggia con una gestione disastrosa, 695.000 euro. Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, allora 1 milione di euro. Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia, 840.000 euro. Giuseppe Orsi, numero di Finmeccanica, 1.654.000 euro. Antonio Mastropasqua, presidente dell'INPS, 1.300.000 euro. Augusto Fantozzi, commissario straordinario dell'Alitalia, 3.700.000 euro. Vabbè, sto zitto, dai. Ci sono anche altri casi. Pensate che Mauro Cipollini, amministratore delegato di Tecnosky, controllata dell'ENAV, finito anche al centro di alcune inchieste per presunte tangenti, ha dichiarato solo 3.987 euro. E voi direte: bravo, sto qua che lavora per una controllata dello Stato e dichiara 4.000 euro lordi di stipendio. Peccato che nel 2007 ha comprato una Mini Cooper e nel 2011 una Porsche Cayenne. Ci spieghi come le ha avute, non so, le hanno regalate? Non si capisce. Adesso, dai super manager pagati, so che alcuni diranno che è populismo, becero e puro, non me ne frega nulla, passiamo invece ai poveri e ai obiettivamente ai poveri relativi, per capire anche che cos'è la povertà relativa. Oggi il rapporto dell'Istat sulla povertà in Italia. D'altronde lui può fare quello che vuole, possiede 600.000 lire di rendita. 600.000 lire? Oh, strichetta, 600.000 lire. Ma che cosa sono 600.000 lire? Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque, sì. Lui lo sa. Rapporto Istat sulla povertà in Italia nel 2011, dicevo, povere 11 famiglie su 100, 8 milioni di persone, in termini di povertà relativa. Povertà assoluta invece sono 3 milioni e mezzo di persone. Poi c'è un altro 7% delle famiglie italiane a rischio povertà, ossia si trova poco sopra la linea che distingue tra povertà e non povertà. Al sud povera quasi una famiglia su 4, so già l'obiezione, al sud il nero è altissimo, è vero, ma non possiamo dare cifre e poi contestare per il nero, sappiamo che c'è anche questo problema. Comunque il 23% delle famiglie che risiedono nel mezzogiorno sono povere, quasi una famiglia su 4, e la povertà relativa è aumentata di un punto percentuale. È più alta in Sicilia e Calabria, pensate che in Sicilia siamo al 27% delle famiglie, in Calabria al 26% delle famiglie. Il dato complessivo sulla povertà non è in aumento, ripeto, ma è in aumento negli operai. Infatti si è passati dal 6,5% di famiglie operaie assolutamente povere al 7,5% e dal 14,9% al 15,4% di famiglie relativamente povere. Non è povero invece, cioè, o meglio, sono calati i poveri tra i dipendenti e i dirigenti dal 5,3% dell'anno scorso al 4,4% di quest'anno. Non c'è nessun politico povero, mi chiedete, ma dai, non. No, magari, però questo. Adesso io sono interessato a sta vicenda perché mi fa veramente incuriosire. Mauro Cipollini, amministratore delegato di TecnoSky, si dichiara 3.987 euro, è povero, è nella fascia di povertà relativa. Dopodiché, con la Porsche Cayenne, è difficile giustificarlo, magari sono i risparmi di una vita. Metti un euro da parte ogni anno e dopo tanti anni ti compri la Porsche Cayenne, che c'è di male? Mamma mia. Allora, professor Zamagni, Stefano Zamagni, che insegna economia politica all'Università di Bologna e all'Università Bocconi di Milano, massimo esperto di povertà. Buonasera. Buonasera. Per far capire a tutti cos'è il termine povertà relativa, il caso dell'amministratore legato di TecnoSky, se fosse vero, sarebbe da povertà relativa. Cioè, noi come calcoliamo la povertà assoluta e la povertà relativa, Zamagni? Povero in senso assoluto è chi non ha il necessario per sopravvivere, per, in altre parole, ricevere circa 1000 calorie al giorno, chi non ha abbastanza soldi per immettere nel proprio organismo almeno 1000 calorie, quindi il povero assoluto è chi è a rischio di vita. Il povero relativo invece è chi ha meno della metà del reddito medio, oppure a seconda dei paesi si può modificare questo dato, cioè si prende il reddito medio di un paese o di una regione, si fa la metà di quel reddito medio. Se il mio reddito è inferiore al numero che ottengo, sono povero in senso relativo. Cioè, quindi, se il reddito medio è 20.000 euro all'anno, medio, se io ho meno di 10.000 sono povero relativo. Povero in senso, allora, la povertà assoluta è un problema di carattere assistenziale, cioè tu non riesci, esatto, ad avere 1000 calorie, esatto, al giorno. Il povero assoluto non si regge in piedi, esatto, perché i medici ci dicono che per funzionare il nostro organismo ha bisogno almeno di 1300 calorie circa al giorno, altrimenti non si regge in piedi, come si suol dire. Il povero, in senso, la povertà in senso relativo è molto più preoccupante, paradossalmente, di quella. Perché? Perché misura la diseguaglianza. Esatto. Ebbene, in Italia, come negli altri paesi, la diseguaglianza è in aumento sistematico da 20 anni a questa parte. Questo allora dice due cose. Primo, perché è pericolosa? Perché la povertà relativa, quando supera una certa soglia, mette a repentaglio sia la pace sociale sia la democrazia. In altre parole, gli occupai, le varie forme di indignados, eccetera, sono un campanello d'allarme a proposito della cosiddetta pace sociale o l'instabilità sociale. L'altro è la democrazia, cioè il povero in senso relativo non partecipa al gioco democratico, non va a votare, e questo spiega perché le percentuali di non partecipazione al voto in Italia, come ormai in altri paesi, sono in aumento di volta in volta. La seconda cosa è che questo denuncia veramente, c'è un problema di natura etica importante, e cioè che abbiamo smesso di parlare di eguaglianza. Eppure nella bandiera della Rivoluzione francese c'era scritto liberté, égalité, fraternité. Di Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa vorrei concludere l'approfondimento sulle statistiche, sulla povertà diffusa oggi dall'Istat, in collegamento con noi il professor Stefano Zamagni. Allora, Zamagni, al sud i numeri, se fossero confermati, sarebbero tragici, cioè 27% in Calabria di poveri relativi, 26% in Sicilia. Non è troppo per essere, tra virgolette, vero? Sapere come le statistiche vengono comprese, tenendo conto anche del fatto che il costo della vita al sud è mediamente inferiore al nord, quindi a parità di reddito, il reddito di 1000 al sud vale molto di più che non il reddito di 1000 del soggetto della famiglia che vive al nord. In ogni caso, questi problemi vanno al di là della singola statistica, quello che conta è il trend, l'andamento, cioè dire il metodo di calcolo è oggi quello di ieri l'altro. Allora noi vediamo che anno dopo anno questo dato aumenta ed è questo che deve riscuotere il nostro, sollecitare il nostro interesse. La domanda allora è perché? La risposta è molto semplice, è che le nuove tecnologie infotelematiche hanno cambiato la natura dei processi lavorativi, nel senso che le imprese oggi chiedono le alte specializzazioni e le basse specializzazioni, mentre si assottigliano i livelli intermedi. Ognuno di noi questo lo sperimenta quando deve andare dall'avvocato, dal medico, eccetera. Vogliamo andare subito dal medico specialista, appena abbiamo annotiamo dei sintomi un po' preoccupanti, non ci accontentiamo più. La stessa cosa, andiamo dall'avvocato super specializzato, medesimo ragionamento lo fanno le imprese. Infatti i super specializzati, ingegneri, avvocati di questo, dell'altro, non hanno questo problema. Come io ho detto in un saggio alcuni anni fa, oggi la struttura del mercato del lavoro è rappresentabile mediante una clessidra. La clessidra, la parte intermedia, è stretta, vuol dire che le imprese dei livelli professionali di mezza tacca, come spesso si dice, ne avranno sempre meno bisogno. Perché? Perché la competizione globale tende a spingere le imprese, sì, per competere. Ma ho capito, Zamagni, ma il problema del nero esiste anche al sud, insomma. A me sembra allucinante dire che il 27% delle famiglie in Calabria e in Sicilia vivrebbero nella povertà relativa, cioè guadagnerebbero meno della metà del reddito medio. Ripeto, dipende. L'Istat fa i calcoli sulle dichiarazioni. Beh, certo, è ovvio che c'è evasione, e l'evasione è mediamente più alta, ma non di tanto. No. L'evasione fiscale è più alta al sud che al nord, ma non così tanto come tendiamo a pensare. No. Il fatto è che al sud ci sono meno servizi. Pensiamo ad esempio ai trasferimenti sanitari. Appena qualcuno ha una patologia un po' seria, viene a farsi ricoverare negli ospedali del nord, e questo comporta spese ulteriori. Quindi è vero che al sud il costo della vita intesa come vita normale è più basso, però di fronte a situazioni emergenziali i costi sono maggiori per via dei trasporti, del vivere fuori casa e così. Vabbè, mi dica l'ultima cosa, il commento l'ha già fatto sul fatto perché gli operai aumentano come famiglie in povertà relativa e i dirigenti e i dipendenti no. Ha ragione però anche un ascoltatore che dice, insomma, dite che non c'è redistribuzione, ma noi paghiamo quasi il 60%, non è così alto, ma quasi il 51% di tasse, non è che possiamo chiedere ancora. Cioè, no. Il meccanismo redistributivo in un paese democratico è la tassazione. Giusto, ha ragione l'ascoltatore. Bisogna intervenire sul momento di produzione del reddito, non sul momento della distribuzione. Me lo spiega? Che vuol dire che bisogna combattere la povertà relativa creando nuove attività produttive legate ad imprese che non sono tenute a competere sui mercati globali. L'esempio più importante è quello delle imprese sociali. Noi in Italia non vogliamo far partire le imprese sociali, che sono imprese come le altre, come la Fiat, ma che non hanno finalità di lucro e che possono produrre beni e servizi in determinate aree creando enormi posti di lavoro, perché non essendo a fine di lucro non sono esposte alla competizione globale. Abbiamo fatto la legge nel 2006, però di fatto non la facciamo funzionare, perché non vogliamo fare i cosiddetti decreti attuativi che consentono alle imprese sociali di avere gli stessi benefici fiscali delle onlus. Questo è un esempio. Non consentiamo l'emissione a costoro delle cosiddette obbligazioni di solidarietà, mentre l'Inghilterra le ha, le ha la Germania e così via. Cioè dobbiamo mettere in testa che per trasformare la clessidra in un cilindro, dobbiamo mettere dentro il mercato nuove tipologie di impresa, perché sono solo le imprese che creano lavoro. Non si può andare avanti con la redistribuzione ad opera della tassazione, perché come è stato rilevato abbiamo raggiunto il massimo. Però chissà perché in Italia queste cose non passano, la nostra classe politica non riesce a capirle, anche se le persone di buon senso la reclamano e insistono da tempo. Ma mi sembra che la nostra classe politica si stia molto occupando dei nomi, dei loghi, della legge elettorale e non del resto del paese. Comunque, grazie professor Zamani, grazie a Stefano Zamani che insegna appunto economia politica all'Università di Bologna, alla Bocconi di Milano. Adesso c'è la borsa. No, un attimo, devo rispondere a un ascoltatore che dice che nella classifica dei manager super pagati, io ne ho citati solo alcuni, lei ha dimenticato lo stipendio da 800.000 euro del suo amico Castellano, amministratore delegato di Sace, ma lui investe e vi aiuta con la pubblicità, non si potrà citare. Vede che si sbaglia, adesso mi chiede scusa però. Borsa. Borsa meno 0,94%, Parigi invariata, Francoforte più 0,20%, Londra meno 0,60%, America invariata in questo momento. Come sempre la facciamo con Radio Cori, Sole 24 Ore, Livia Zancanelli, buonasera. Buonasera. E Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha messo un po' di timori sulle borse. Sì, infatti le borse europee inizialmente avevano vissuto una giornata all'insegna degli acquisti, ma poi sono state deluse, diciamo così, dalle dichiarazioni del presidente della Fed, Ben Bernanke. Il governatore della Banca Centrale non ha infatti fornito indicazioni sulle prossime mosse della Fed per stimolare l'economia, mosse che invece erano attese dai mercati. La piazza peggiore è stata Milano, mentre le altre avevano chiuso sulla parità, positiva Madrid che ha guadagnato lo 0,24% circa. Sì, una delle poche positive. I titoli, allora, l'automatica è più 3,14, Ansaldo STS più 1,60, poi Tod's più 1,60 anch'essa, Parmalat più 1,22, Atlantia più 1%, Saipem più 0,80. Chi perde? Pop Milano meno 3,92, Monte dei Paschi meno 3,24, Intesa San Paolo meno 3%, Ubibanca meno 2,60 come A2A. Il 2,30 lo perde in Pregilo, ma anche, di cui parleremo tra un attimo, Pirelli e Unicredito e Mediobanca. L'1,90 è il calo della Popolare Emilia Romagna e di Buzzi Unice, l'1,60 quello di Campari e di ST Microelectronics. Allora, Ansaldo STS da un lato, se abbiamo notizie anche sull'automatica dall'altro, e poi banche e Buzzi Unicem. Allora, partiamo dall'automatica che è stata la migliore del FTSE MIB. L'unica notizia è quella che è stata comunicata ieri, cioè che la controllata americana ha firmato un contratto di 10 anni per la fornitura di servizi al gruppo che si occupa della gestione delle lotterie in Argentina. Per quanto riguarda Ansaldo beneficia ancora dell'attesa per i risultati trimestrali che saranno diffusi il 26 luglio. In particolare gli esperti si aspettano nuove commesse e stimano ordinativi per oltre 700 milioni nei primi 6 mesi di quest'anno, confermando così il target per la fine del 2012 intorno a 1,5-1,17 miliardi di ordini complessivi. Ancora di Fondiere Assai, oggi che succede nella saga Fondiere Assai, di cui secondo me ormai pochissimi capiscono qualcosa, ma le ordinarie più 89%, ieri è partito l'aumento di capitale, più 89%, le risparmio più 62%, Premafin, la finanziaria di controllo, più 11,80%, Unipol invece sulle ordinarie, cioè l'acquirente, meno 13,4%, le privilegio meno 15,40%. Allora ricordiamo che come ieri anche oggi i diritti sono venduti in quanto hanno registrato performance negative, mentre Fonsai è balzata appunto ancora del 90%. Ricordiamo appunto che oggi è il secondo giorno dell'aumento di capitale di Unipol e di Fonsai. Allora, per quanto riguarda Fonsai, se noi calcoliamo al momento l'azione più il diritto valgono oltre il 64% in meno rispetto al valore precedente all'aumento di capitale. Ricordiamo infatti che venerdì scorso il titolo Fonsai aveva chiuso a 45,64 euro. Per quanto riguarda Unipol invece il titolo viaggia il 50% in meno rispetto al valore pre aumento di capitale. Alcuni esperti sottolineano che la vendita dei diritti potrebbe essere un segnale che l'operazione di fusione, il piano industriale presentato dal numero uno di Unipol, non convincono i mercati, anche se bisognerà aspettare comunque la fine dell'aumento di capitale. Ricordiamo anche che la Consob, prima della partenza dell'aumento di capitale, aveva avvertito di un forte rischio di anomalie di prezzo dei titoli, quindi la Commissione sta continuando a monitorare le due azioni per evitare soprattutto che vengano realizzate vendite allo scoperto. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, in pregilo, Livia, visto che ne parleremo adesso, intanto saluto e ringrazio il collega Simone Filippetti per averci raggiunto in studio. Ciao Simone. In pregilo, Livia. Allora, in pregilo ha vissuto una giornata in segno degli acquisti, una prima metà della seduta, poi ha chiuso in calo del 2,4% circa. Si è sgonfiato quindi l'appeal speculativo sul titolo dopo l'assemblea che ha sancito la vittoria di Salini sul gruppo Gavio. Ricordiamo che entrambi sono azionisti con poco meno del 30%. 29,9 a testa, se non ricordo male. Infatti. E inoltre, al termine dell'assemblea, i vertici di Salini hanno escluso l'ipotesi di un'offerta pubblica di acquisto su Impregilo da parte di Gavio. Quindi diciamo che al momento l'appeal sul titolo per la battaglia, appunto per il controllo del gruppo che si è conclusa oggi, si è sgonfiato appunto con la vittoria di Salini. E nel ringraziare Livia Zancaner passo la parola appunto a Simone Filippetti. Abbiamo avuto il nostro ospite Claudio Costamagna la settimana scorsa, che adesso diventa il nuovo presidente del CDA, esatto, del gruppo Impregilo, primo gruppo italiano per costruzioni. Allora parliamo un po' di Impregilo, vai. Impregilo, primo gruppo di costruzione in Italia, 2 miliardi di giro d'affari, portafoglio ordini da 20 miliardi, capitalizza 1,5 miliardi quasi, 20.000 dipendenti. I due principali azionisti sono i due che si sono scontrati, cioè da un lato Salini Costruzioni col 29,2% e dall'altro il gruppo Gavio che ha il 29,9%. Ha ottenuto il gruppo Salini la revoca, quindi le dimissioni del consiglio di amministrazione in carica, che era espresso dal gruppo Gavio e presieduto da Fabio Palenzona, e si è aggiudicato una nuova maggioranza, 14 posti dei 15 in consiglio. Ha eletto Claudio Costamagna nuovo presidente di Impregilo. Cosa cambierà, visto che la vittoria di Salini mi sembra netta, Simone? Cambia innanzitutto ovviamente la gestione, perché abbiamo un CDA che è totalmente diverso da quello passato, quindi Gavio viene totalmente estromesso dalla gestione. Salini ha promesso di voler sostanzialmente trasformare la società. Oggi Salini fa due mestieri sostanzialmente: costruisce grandi opere, la TAV, fa due mestieri. E uno è quello delle costruzioni delle grandi opere, l'altro è quello delle concessioni, quindi la gestione di concessioni autostradali e simili. Salini ha detto che vorrà sostanzialmente far concentrare Impregilo solo sulle costruzioni, quindi uscire dal settore delle concessioni. E questo, oltre che rispondere a una logica di scelta industriale, strategica, che quindi come dire, è chiaramente spetta all'azionista decidere, ha anche una motivazione prettamente pratica, perché Salini, per comprare il 29,9% di Impregilo, sostanzialmente si è indebitata, ha avuto sostenere un esborso finanziario abbastanza sostenuto, quindi anche la necessità di ripagarsi dell'investimento, e in più per attrarre dalla sua parte i fondi che oggi l'hanno votato in assemblea, ha promesso un dividendo straordinario. E quindi dovrà reperire queste risorse. Mi sembra, per parlare dell'assemblea che già era stata sospesa la settimana scorsa e rinviata, che a essere determinanti siano stati gli azionisti del fondo Amber, che ha il 7,2% di Impregilo, cioè il terzo azionista per peso, o no? Sì, di fatto in realtà il vincitore morale della partita è Amber, che in realtà ha più del 7,2. Il 7,2 è quanto, diciamo, è dichiarato come possesso diretto, ma in realtà la quota effettiva è l'8,4, quindi sostanzialmente è stato colui che ha permesso a Salini di vincere. Visto lo scarto esiguo con cui il voto è passato, 51% contro 49%, di fatto quell'8% è stato determinante a far sì che Salini in qualche modo si affermasse e quindi vincesse la sua partita. Bisognerà vedere poi Salini con Amber quali intenzioni avrà, e essendo un hedge fund americano e quindi, come tutti i fondi di investimento, interessato più al ritorno sul capitale che agli investimenti industriali, bisogna vedere quali saranno le sue strategie future. Devo dire che Costa Magna, magari lo arriveremo ospite, ha chiarito quanto tu dicevi, cioè loro vogliono uscire da tutte le partecipazioni, non strettamente nel mondo delle costruzioni. Comunque vedremo poi che piega prenderà la nuova Impregilo sotto guida del gruppo Salini. Grazie a Simone Filippetti. Grazie a voi. E ultimo tema di questa prima ora, poi parleremo con Ivan Lobello della Regione Sicilia. Il tema si chiama mercato europeo delle auto, è uscito infatti il dato sulle immatricolazioni, inflessione mercato meno 1,7%, è il nono calo consecutivo. Il problema vero si chiama però Fiat, dove le immatricolazioni sono calate ben più della media, meno 16,7%, questo anche perché l'Italia è il paese che va peggio come immatricolazioni, meno 24%, la Spagna ha fatto meno 12%, la Francia meno 0,6%, la Gran Bretagna addirittura più 3,5%, la Germania più 3%. Meno 17,5% Ford, dice tutti Peugeot meno 8%, Renault meno 4% e appunto Fiat meno 16,7%. Gianprimo Quagliano, buonasera. Buonasera Sebastiano. Hai due minuti scarsi per il commento, vai. Ma questi dati sono dati che erano attesi. Il mio commento, in aggiunta alle cose che hai già detto, è che sostanzialmente all'interno di quest'area si nota una particolare debolezza dell'insieme dei paesi che hanno l'euro come moneta. Infatti questi paesi accusano un calo del 9,3% nel semestre, mentre il totale degli altri paesi, sempre dell'area UE27 più EFTA, cresce del 3%, mentre nel resto del mondo i dati di giugno dicono che le immatricolazioni sono salite del 22% negli Stati Uniti, del 18% in Brasile, del 10% in Russia, del 9,9% in Cina e del 9,8% in India. La mia valutazione, la nostra valutazione è che il mercato automobilistico europeo risente pesantemente soprattutto della politica di austerità senza crescita che è stata imposta a molti paesi, tra cui purtroppo il nostro, che è quello che accusa la maggiore contrazione. Vabbè, su questo non ci sono dubbi, è da mesi, anni che stiamo raccontando come un effetto di questa crisi sia la riduzione dei cosiddetti beni durevoli, cioè la lavatrice, l'automobile, il frigorifero, se non hai proprio bisogno non li compri, e anche se i prezzi di questi beni non sono aumentati così tanto, anzi in alcuni casi sono anche stati prezzi deflattivi, però attenzione, cioè, è il risultato. Mi fa specie che la Germania invece continua a crescere più 3%, però attenzione, i gruppi Volkswagen fa più 4,3%, Audi più 8,6%, BMW più 0,3%, E devo dire sostanzialmente questi sono dati migliori. La Opel però fa meno 12% e l'11% in meno lo fa Peugeot. Il dato peggiore purtroppo spetta a Alfa Romeo meno 30% e a Mitsubishi meno 35%. Grazie direttore del Centro Studi Promotor Gianprimo Quagliano. Adesso lasciamo la linea al GR e poi torniamo sulla Sicilia. Qualche secondo ce l'ho ancora o no? 30 secondi per dirvi una cosa. Scrive un ascoltatore: lei non sa nulla sull'Alto Adige, non è vero che noi usiamo i soldi di Roma. Attenzione, dati dell'ultimo anno, un lombardo versa 4.400 euro in più di quanto riceva, un cittadino della Val d'Aosta invece ne riceve 5.000 in più di quanto versa, un friulano ne riceve 1.730 in più di quanto versa e il cittadino del Trentino Alto Adige riceve oltre 2.000 euro in più di quanto versa di tasse. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e occupiamoci, come annunciato, di Regione Sicilia. Tra l'altro io andrò forse in vacanza in Sicilia, come mi scrive un ascoltatore, le do un consiglio, non vada in vacanza in Sicilia, perché no, è una regione bellissima. No, a noi interessa la cattiva amministrazione della Regione Sicilia e anche se non è l'orario in cui mandiamo in onda la nostra rubrica quotidiana, ormai purtroppo, sulla crisi che gli altri non sentono, regioni, comuni, il governo nazionale, classe politica, la rubrica ma cos'è questa crisi? Beh, ci torniamo. La Sicilia, devo dire, in questi mesi purtroppo è stata la regione che ci ha fornito più materiale. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. 5 miliardi infatti il buco di bilancio della regione Sicilia, buco certificato dalla Corte dei Conti. In cassa della regione solo 3 milioni di euro, come scriveva tre giorni fa proprio il Sole 24 Ore. Come mai si arriva ad avere 5 miliardi di buco di bilancio in cassa, solo 3 milioni di euro, con una regione autonoma, quindi a statuto speciale? Beh, lo abbiamo raccontato in questi mesi, vi do una rapidissima sintesi, allacciatevi le cinture, prendete un po' di Malox perché ce n'è bisogno. Mi date una base? Allora, 18.000 dipendenti, 1.300 dirigenti, e poi se si contano anche i dipendenti delle 34 società controllate, si arriva a 29.000 persone che lavorano solo per la regione. I forestali in Sicilia sono 28.540, ora io capisco i boschi, le foreste siciliane, la Madonia, insomma sono quasi la metà di tutti i forestali presenti in Italia, che sono 70.000, appunto 28.500 solo in Sicilia, mi sembra un po' eccessivo. Tra l'altro 26.000 sono precari e costano 700 milioni di euro l'anno. E poi ci sono i casi che abbiamo raccontato con la nostra rubrica Cos'è questa crisi. Il Museo di Arte Contemporanea di Palermo, non c'è un solo quadro, sale deserte, ma vi sono 22 custodi che vegliano su 2000 metri quadri di nulla, neanche fontane, proprio vuoto. Eppure quando il 7 ottobre 2010 il governatore Lombardo fece una dichiarazione importante, la parola d'ordine era risparmiare. La nostra idea, disse Lombardo, è quella di eliminare gli enti inutili. Peccato che l'Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni dell'Agricoltura non ha mai funzionato dal 2006 al 2012, ma costa 800.000 euro l'anno. L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Regione ha spese di funzionamento per 300.000 euro l'anno. Il Consorzio per la Ricerca sul Rischio Biologico costa 250.000 euro l'anno. 250.000 euro costa anche la Stazione Sperimentale per la Granicoltura e 2.300.000 euro l'anno vanno all'Istituto di Incremento Ippico. Istituto di Incremento Ippico. 3 milioni all'Istituto Zootecnico, poi i casi più belli. Cioè, il 26 aprile il governatore Lombardo annuncia che a fine luglio si dimetterà e in quei due mesi fa 100 nomine dirigenziali, cioè ha nominato negli ultimi due mesi 100 dirigenti, non male per uno che se ne deve andare, tra cui anche Eugenio Trafficante, commercialista dell'Agrigentino, detenuto per stalking e nominato presidente del Collegio dei Sindaci di Sicilia e Servizi. Quali servizi, visto che ti hanno accusato di stalking? Boh. Ma non basta, perché c'è anche Tony Rizzotto, l'ex deputato regionale del Movimento per le Autonomie, che ha dovuto rinunciare all'incarico perché è incompatibile col suo impegno di dirigente comunale. Doveva essere presidente di Italia Lavoro Sicilia. Nessun problema. Lombardo ha un minuto dopo nominato la moglie, la fidanzata di Rizzotto, che ha una formazione sulla gestione del lavoro in Sicilia, infatti fa la psicologa. Quanto spende la Regione Sicilia? Forse anche così si potrebbe risparmiare. Pensate che per cancelleria e materiale tecnico informatico, penne, matite, fotocopiatrici, fax, la Lombardia ha speso 9 euro per ogni 100 abitanti, il Piemonte 55 e la Sicilia 102, cioè 11 volte più che la Lombardia. Abbiamo già detto, ma che saranno? Tutte Cartier, Pinaide, carta di Fabriano, rarissima. E arriviamo alla notizia. Ieri in un'intervista su Corriere della Sera l'ex presidente degli industriali siciliani e vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello, colui il quale lanciò in Sicilia assieme a Montante l'iniziativa sull'espulsione di chi paga il pizzo dalla Confindustria, dice: Mario Monti metta mano ai conti della Sicilia, bisogna superare eventualmente anche l'autonomia, cioè revocare tra virgolette l'autonomia. La situazione è di crack totale, bisogna scuotere i siciliani, i dipendenti, i pensionati, che saranno i primi a trovarsi senza stipendi in caso di crack finanziario. La Sicilia rischia di essere la Grecia dell'Italia. Presidente Lobello, buonasera. Buonasera a voi. Lei appunto ha guidato la Confindustria Sicilia dal 2006 al 2012, ma sta ridendo per i casi che abbiamo... No, abbiamo messo una musichetta così per... perché sennò c'è da piangere. Vuol dire fatico a ridere, cioè, nel senso purtroppo che, sì. Ho dimenticato la cosa più bella, perché ci sono anche i camminatori, giustamente gli ascoltatori me lo segnalano. La Regione Sicilia, con un bando dello scorso 17 maggio, ha cercato per i suoi uffici 30 camminatori. Io conoscevo il passatore cortese, ma il camminatore ancora no. Sono dipendenti che avranno il compito di spostare camminando le pratiche da un posto all'altro. Anche così è un metodo un po' keynesiano per creare occupazione. Ci sono poi 8 persone che si occupano di relazioni diplomatiche internazionali fondamentali. In 21 si occupano della promozione dell'identità siciliana. Il Dipartimento del Lavoro dà lavoro a 32 collaboratori. L'ufficio di presidenza, caro Presidente Lombardo, ha 157 chauffeur. E poi ci sono uffici con un solo dipendente. L'ufficio sismico regionale ha un solo dipendente, magari potrebbe averne di più. Presidente Lobello, lei vuole il commissariamento? No, non ho parlato di commissariamento, anche perché non è chiarissimo il quadro giuridico. Ho chiesto solo un'operazione di verità. Esistono dubbi reiterati dalla Corte dei Conti, da altre realtà, anche da Confindustria in passato, su alcune poste di bilancio, fra tutti i residui attivi. I residui attivi sono un po' i crediti che vanta la Regione Siciliana. Ecco, noi abbiamo seri dubbi che questi crediti siano in larga parte inesigibili. Cosa succederebbe a una società di capitali operazioni? Dovrebbe svalutare questi crediti, portare in bilancio una perdita e avere i soldi per ricostituire il capitale che in quel momento diventerebbe sostanzialmente negativo. Sotto questo profilo mi sono limitato a dire, nell'interesse della Sicilia e dei siciliani, cerchiamo di sgomberare il campo da dubbi abbastanza fondati su alcune poste di bilancio, fra tutte i residui attivi. Ho anche precisato. Cioè, spiego a tutti, è inutile continuare a mettere in bilancio dei crediti che avanti, che tanto che sai non potrai riscuotere, se posso tradurre. Sì, molto spesso sono crediti che si sa fin dall'origine che non possono essere riscossi. Ho voluto dire, anche per onestà intellettuale, che il problema non era solo limitato a questa stagione politica e a questo governo, nel senso che la situazione drammatica che la Sicilia affronta è una situazione, insomma, che ha tanti padri, non solo... Sì, non è che Cuffaro abbia amministrato la svedese, ecco. Non solo questo, è stato il frutto di una classe dirigente risalente nel tempo, che ha pensato che invece della crescita, come avviene in tutto il mondo, il modello siciliano fosse quello di una distribuzione capillare e assistenziale di risorse pubbliche. Questo ha portato a un fortissimo degrado, ha bloccato il bilancio su spese inutili, inefficienti, ha creato precari, forestali, una realtà che oggettivamente oggi è indifendibile e che fa perdere credibilità alla nostra regione. Beh, anche al nostro paese, Presidente Lobello. Adesso ci interrompiamo perché c'è il traffico. Due risposte brevissime a chi dice: ma lei cosa pensa delle regioni a statuto autonomo? Beh, primo, penso che l'autonomia tutta la debba meritare, come per un individuo, e quindi se la gestisci così te la leviamo e basta. Uno, quindi, questa non è autonomia, quella della Regione Sicilia è anarchia, cioè ognuno fa quello che vuole, tanto poi paga pantalone. Due, personalmente penso che nel 2012, col mondo globalizzato, con la Cina, l'India, il Brasile, il Vietnam, l'euro, parlare ancora di autonomia delle valli d'Aosta, dell'Alto Adige, del Trentino, del Friuli sia un assurdo. È vero che sono ben amministrate, ma grazie ai soldi in più che ricevono dai contribuenti italiani. Basta con questa autonomia, dai, oppure autonomia per tutti. Di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni, ospite l'ex presidente degli industriali siciliani e attualmente vicepresidente di Confindustria, Ivan Lobello. Appunto, stiamo ragionando del rischio fortissimo di crack finanziario della Regione Sicilia. A chi continua a scrivere al 349-238-6666 dicendo: non è vero che le regioni in studio speciale ricevono molti più soldi, è verissimo. Cioè, laddove un lombardo e anche un emiliano e anche un vento pagano più di quello che ricevono, i trentini, i valdostani, i friulani, i siciliani, i sardi ricevono più di quanto pagano. Fine. Comunque, Lobello, l'ho interrotta, volevo concludere il suo pensiero. Questa non è tutta la Sicilia. La Sicilia in questi anni ha fatto passi in avanti notevoli, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo della percezione sociale. Pensiamo, insomma, ai temi della legalità, alla volontà di superare vecchie rendite, corporazioni, mercati protetti e di competere sul mercato. Cioè, la Sicilia è stata in questi anni un luogo di innovazione, purtroppo un luogo di innovazione che però ha visto anche tanti sperperi e inefficienze. Quindi non è un attacco al governo lombardo, mi sarei aspettato che di fronte a una richiesta di fare chiarezza sui crediti venisse nominata immediatamente una società di revisione tra le più importanti a livello internazionale per fare una due diligence in grado di valutare se questi crediti siano esigibili o non siano esigibili. Certo. Non mi sembra che sia una cosa che meritava, diciamo così, tutte queste reazioni Vabbè, negative. Devo interrompere perché è arrivata un'agenzia adesso in cui il Presidente del Consiglio Mario Monti chiede al Governatore Lombardo la conferma delle sue dimissioni a fine luglio, aggiungendo: il nostro intervento contro il fallimento sarà connesso alla situazione politica. Fa bene Monti a chiedere a Lombardo la conferma delle dimissioni per creare maggiore chiarezza? Beh, credo di sì. Io nell'intervista dell'altro ieri invitavo Monti, ma ovviamente il governo, non era una personalizzazione, a cercare di contribuire a fare chiarezza. Una situazione di difficoltà finanziaria finirebbe per coinvolgere l'intero paese in una fase complessa in cui lo spread è risalito, affrontiamo una recessione molto, molto profonda, quindi non possiamo permetterci nulla sotto questo profilo. Per questo credo che se la Regione non intende fare chiarezza attraverso terzi indipendenti sulla situazione di bilancio, è bene che lo faccia il Governo nazionale. Cioè, secondo lei, una volta che Lombardo confermerà al Presidente del Consiglio che se ne va a fine luglio, Monti dovrebbe il giorno dopo o l'ora dopo commissariare la Regione? Le ripeto, dal punto di vista giuridico non è facilissimo, è una regione autonoma. Sui temi del commissariamento non mi pronuncio perché, diciamo così, è una vicenda molto, molto complessa e prima di un eventuale commissariamento bisognerà verificare concretamente la situazione finanziaria. Quello che farebbero tutti in un mondo normale, è prendere una grande società di revisione, mettergli in mano il bilancio regionale e il bilancio delle società controllate, perché non esiste un consolidato regionale. Valutare se i crediti siano esigibili o meno, capire qual è È inutile continuare a scrivere nel bilancio che tu vanti 100 euro da soggetto X quando sai che quelli non te li darà mai. È una presa di giro. Mi dica una cosa, però, Lobello. Secondo lei, Lombardo ha annunciato ad aprile che se ne andava perché sapeva che sarebbe arrivato il diluvio? No, non credo. Credo che la vicenda di aprile sia la vicenda di luglio sia legata a fattori politici, credo, insomma, alla rottura di un'alleanza tra l'MP. Cioè, Lombardo non fa come Schettino. E altre forze politiche. Lo ha detto più volte, non ho motivo di ritenere che non lo faccia, perché lo ha detto pubblicamente anche in sedi solenni. Però le ripeto, oggi il problema è solo parzialmente le dimissioni. Sono solo era per capire il contesto politico. Il tema è veramente fare chiarezza. Purtroppo, sai, il costume politico in Sicilia non è tra i migliori. Una intervista pacata che invitava a fare chiarezza nell'interesse della Sicilia e dei siciliani, che non attribuiva tutte le responsabilità a questo governo, ma a una stagione politica che almeno data dagli anni 70 in poi è stata letta, vista come se fosse un attacco a questo. C'è il principio della coda di paglia, Presidente Lobello. Mi dica una cosa. Questo governo che, peraltro, diciamo così, come ha preannunciato Lombardo, finirà a luglio, insomma, non. Io credo che tutti debbano tornare con i piedi per terra e fare ognuno il proprio dovere con grande senso di responsabilità, perché è una fase in cui non possiamo permetterci nulla, meno che mai la scoperta eventuale di buchi che possono compromettere la stabilità sociale ed economica della Sicilia e dell'intero paese. Quindi, secondo lei, Lombardo le dimissioni le aveva annunciate, decise non per fare come Schettino, diceva, lasciare la nave mentre affonda, no? Cioè era un motivo... No, credo che i motivi, ripeto, no, erano legati alla rottura dell'alleanza. È una vicenda giudiziaria in corso sulla quale credo correttamente Lombardo abbia ritenuto di dimettersi prima di un eventuale rinvio a giudizio. Non credo che possa cambiare opinione sotto questo profilo, ma proprio per questo credo che possa fare un gesto finale prima delle dimissioni, facendo chiarezza sul bilancio. e ripeto, le responsabilità non sono solo sue o di questo governo, sono responsabilità risalenti nel... Questo è chiaro, quindi, Presidente Bello. Mi dica una cosa però, per concludere, ma è inutile girarci attorno, visto che lei assieme all'ex vicepresidente di Confindustria Montante siete stati i fautori dell'iniziativa che vi ha creato anche molti, ha tirato molte critiche, espellere gli imprenditori che pagano il pizzo. Però, insomma, che peso ha la mafia in questi conti? Inutile girarci attorno. Cioè, ci può essere una corruzione normale oppure una corruzione che è frutto anche della situazione a delinquere di stampo mafioso? Il tema della corruzione è fondamentale, nel senso che molto spesso si possono scoprire infiltrazioni mafiose più attraverso i fatti corruttivi e i rapporti corruttivi con la pubblica amministrazione che non con indagini mirate alla mafia. Nel senso che, quando negli ultimi 40 anni il modello prevalente è stato quello della redistribuzione clientelare di risorse pubbliche, in questa redistribuzione clientelare di risorse pubbliche ci sono state le clientele politico-elettorali, ma ci sono state anche le clientele frutto di rapporti corruttivi nel tempo. E la mafia è un soggetto sociale ed economico molto, molto forte, ostile al mercato e quindi pieno e dentro la cultura distorsiva creata da corruzione e da altre forme di accaparramento delle risorse pubbliche. Quindi, ma le ripeto, questa è la storia siciliana, una cosa la devo dire necessariamente. Probabilmente siamo all'epilogo di una stagione, insomma, che non ha portato beneficio alla Sicilia, anzi l'ha portata sull'orlo del baratro. E però questa è l'occasione per la società siciliana per avviare un percorso di cambiamento, perché devo essere onesto fino in fondo, il problema siciliano non è stato solo la politica. Siamo d'accordo su questo, perché la politica è espressione, ricordiamocelo sempre, della cosiddetta società civile o incivile. Le faccio ascoltare cosa ha detto, prima di salutarla, oggi con Alessandro Milan, 24 Mattino, l'assessore alle infrastrutture e trasporti della Sicilia, che in realtà le ha dato totalmente ragione alla domanda: la Sicilia è sull'orlo del crack? Ha detto proprio, io penso di sì, e ha anche aggiunto alcune considerazioni sul clientelismo e su questo numero esorbitante di forestali. Credo che gli impiegati regionali siciliani sono una grandissima quantità. Quanti in più rispetto al necessario, secondo lei? Quanti sono i... Questa non è una stima che sono in grado di fare, ma se lei esamina, va in un ufficio pubblico e vede quante persone oziano avanti e indietro, si rende conto del numero esorbitante di persone. Lei teme anche, come ha detto il presidente Robello, che ci possa essere un crack finanziario, cioè che a breve non ci siano neanche i soldi per pagare i dipendenti regionali della Regione Sicilia? Io penso di sì, ma non è possibile che sono gli stessi forestali ad appiccare gli incendi. Questo è un rumor che c'è in tutta la regione. E com'è possibile che nella regione siciliana ci sono più incendi che nelle altre regioni d'Italia? Quindi il sospetto è legittimo? Io credo, per carità, è solo un sospetto, ma io credo che il numero degli incendi sia direttamente proporzionale al numero dei forestali. Qui, Presidente Robello, siamo veramente al teatro dell'assurdo, cioè addirittura il numero degli incendi, sospetta l'assessore alle infrastrutture e trasporti, potrebbe essere correlato in maniera diretta al numero di forestali per giustificare il loro numero, che è come dire che se per giustificare i medici tendi ad avere più incidenti, più tumori e più malattie, è una cosa pazzesca, no? Lo so, purtroppo è un dubbio che aleggia da tanto tempo in Sicilia. Spero che non sia ce l'avete tutti questo dubbio, però mi sembra di capire che non sia vero, ma è un dubbio, insomma, che serpeggia nella società siciliana. Senta, ma se Monti le chiedesse di candidarsi in qualche modo? Impossibile, come lei sa, noi abbiamo varato un codice etico, anzi sono stato, diciamo così, il papà di questo codice etico l'anno scorso, che vale per la Sicilia, dove tutti gli esponenti, io primo fra tutti, ci siamo impegnati a non candidarci se non decorsi 3 anni dalla scadenza del mandato, il che significa, insomma, io sono scaduto a marzo di quest'anno, quindi sicuramente non potrò partecipare. Ma neanche come commissario straordinario, no. faccio un altro mestiere e penso che il mio lavoro sia più utile nella società siciliana. Ecco, una cosa le voglio dire però, nel ringraziare la Presidente Lobello, noi abbiamo avuto in questi anni e mesi anche decine di imprenditori siciliani bravissimi, penso solo a un settore vitivinicolo in cui la Sicilia è rinata. È una delle regioni più importanti d'Italia, la più importante del sud, a dimostrazione che non c'è niente di culturale o antropologico. Molti contestano delle regioni autonome le mie dichiarazioni, domani ne riparliamo se volete, visto che c'è chi ritiene di versare esattamente quanto riceve. Sono balle, non c'è una regione autonoma che versi quanto, cioè riceva quanto ha versato. Sono tutte in deficit, pagano gli altri italiani. Ci sentiamo domani comunque, intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.